La versione di Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori, buon pomeriggio, anzi cari ascoltatori del 24, questo lunedì post pasquale, questo lunedì 28 di marzo, approfittiamo del fatto che siete in ascolto ma praticamente quasi tutti in vacanza e rientrerete tra poco nelle città per il lavoro di domani, però per fare una riflessione che approfitta della Pasqua che ieri avete tutti festeggiato, per un ragionamento che nelle cronache terribili e impetuose della scorsa settimana ovviamente non era il caso di fare e che spesso ho posposto, per così dire, perché la cronaca ha le sue leggi impetuosamente imperanti. Però è un punto di fondo su cui, approfittando appunto di questo lunedì post pasquale, dopo le parole che ha pronunciato Papa Bergoglio anche ieri, come tutte le feste comandate, da tempo ci tenevo a fare, perché è un ragionamento di fondo intorno a un punto che per chi come me, non è un mistero, ama il mercato, la concorrenza, non ritiene affatto che la globalizzazione sia all'origine di tutti i guai a cui viene ricondotta invece la sua responsabilità, come nell'opinione pubblica ormai imperante anche nel nostro paese, da parte di forze politiche di ispirazione alle più varie diverse, di destra e di sinistra, ma che sono ormai unite in questo giudizio nel nostro paese, mi sono chiesto spesso se non fosse il caso un secondo di riflettere su un punto in relazione a qual è il pensiero che viene espresso dall'attuale Papa e quindi dal vertice della gerarchia cattolica italiana rispetto al mercato, rispetto ai suoi predecessori. C'è chi ritiene, ed è una delle ragioni per cui è popolarissimo Bergoglio, che Bergoglio fa una correzione di linea molto profonda rispetto ai suoi due predecessori, a Benedetto XVI e a Giovanni Paolo II. C'è chi ritiene che il più dei suoi giudizi, che sembrano rifarsi a una dottrina della Chiesa molto dura e molto severa nei confronti del mercato, dell'impresa e così via, siano un ritorno, per così dire, alla tradizione. C'è chi invece ritiene che bisogna scavare un pochino più a fondo e che questa è una visione un po' unilaterale e semplicistica. Resta il fatto che in effetti le parole del Papa sono tornate alla parità in questi anni, da che è iniziato il suo pontificato, come parole che piacciono molto a coloro che nel mondo, per una ragione o per l'altra, ritengono che il mercato sia l'origine dei disastri e non il meccanismo attraverso il quale in questi ultimi 20 anni abbiamo trovato una risposta al problema di tirar fuori dall'economia della sussistenza, cioè dal rischio di morire di fame, più centinaia di milioni di individui sul pianeta Terra rispetto a quanto sia mai, ripeto, mai capitato in tutta la storia dell'umanità precedente, mai. Ecco, in questi 20 anni è successo questo, lo dicono le statistiche della Banca Mondiale, sono numeri conclamati. Detto tutto questo, non è naturalmente che questo avvenga in un mondo in cui tutti sono felici, contenti, e lo abbiamo visto naturalmente, che cosa significa lo scontro di culture, lo scontro di fondamentalismi, cosa sia il terrorismo e così via. Ma detto questo, il punto è proprio interrogarci su questa faccenda. Io vi dirò, prima di presentarvi l'ospite, che è molto più competente di me per darci una mano a capire come comprendere davvero le parole di Papa Bergoglio rispetto al mercato, che per me resta indimenticabile quanto lesse nella centesimus annus di Giovanni Paolo II. Stiamo parlando di un bel po' di anni fa oramai, perché stiamo parlando del 1991. Io vi ricordo solo un passo di quell'enciclica, anzi due, e a un certo punto nella centesimus annus di Giovanni Paolo II, che non veniva ovviamente dalle favelas disastrate di Buenos Aires, ma aveva avuto una storia personale a diretto contatto con i due autoritarismi, quello nero e quello rosso, che l'Occidente ha regalato nella sua devastante crisi di pensiero del Novecento a tutto il mondo, e in Polonia aveva appunto visto gli effetti sia dell'occupazione nazista che poi del comunismo. Giovanni Paolo II, la sua enciclica, la sua terza enciclica sociale, la centesimus annus, a un certo punto scrive esplicitamente, leggo: è il capitalismo il modello che bisogna proporre ai paesi che cercano la via del progresso economico e civile? Così, esplicito. Questa era la domanda che a un certo punto nell'enciclica poneva il Papa polacco. E la risposta era questa, anch'essa virgolettata: se sotto il nome di capitalismo si intende un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente libertà per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore dell'economia, la risposta è certamente positiva. Capite che un'enciclica che parlava di questo in questi termini produsse un mucchio di riflessioni, si parlò di una vera e propria svolta da questo punto di vista, e non era solo questa espressione, era l'intera impostazione dell'enciclica che nasceva da un incardinamento forte della dottrina della persona umana e della sua libertà, quindi un tradizionale fondamento della dottrina sociale cristiana e cattolica, intorno alla quale la buona impresa doveva essere considerata come un motore positivo. Naturalmente buona impresa, cioè derivante da questa centralità della persona e della sussidiarietà, però con una domanda e una risposta, come vedete, che era molto secca, molto chiara, per così dire. In un altro passaggio dell'enciclica, allora Papa Giovanni Paolo II si chiedeva, dopo aver sottolineato che il sottosviluppo dipende dall'isolamento dei paesi più poveri del mercato mondiale e che per questo bisogna aiutare gli uomini, virgolette, ad acquisire conoscenza, entrare nel circuito delle interconnessioni, a sviluppare le loro attitudini per valorizzare al meglio capacità e risorse, proseguiva l'enciclica dicendo che questo accesso alla conoscenza è frenato da molti ostacoli, e andando a vedere quali il Papa allora individuava, tra di essi c'era anche la mentalità che considerava una specie di commercio etico come un circuito parallelo e residuale rispetto a quello del commercio tout court e non integrato in esso, cioè che limita lo smercio dei prodotti dei paesi poveri nel mercato occidentale ai soli circuiti appunto del mercato etnico, e anzi del mercato etnico, oppure della considerazione degli aiuti economici alle imprese dei paesi poveri solo sotto forma di prestiti o trasferimento di tecnologia che da noi è già obsoleta. Allora, un Papa capace di parlare in questi termini fu molto attaccato allora dal pensiero progressista dentro e fuori la Chiesa. Oggi sembra di assistere a una marcia indietro. È così? Allora, su questo interrogativo di fondo noi abbiamo chiamato il professor Flavio Felice, che insegna dottrina economica e politica alla Pontificia Università Lateranense e che da molti anni, nonostante la sua giovane età, per la casa editrice Rubettino ha curato, nonché scritto, molti libri intorno esattamente a questo filone. È stato il prefatore per esempio di Coltivare la libertà di Michael Novak, che è uno dei nomi di cattolici americani più impegnati su questo fronte della riconciliazione, semmai c'è stato un problema tra magistero sociale della Chiesa e mercato, insieme ad altri nomi come quello di George Weigel, di Neuhaus, di Sirico, che è stato il fondatore del Lord Acton Institute negli Stati Uniti. Allora, grazie innanzitutto di essere con noi per questa riflessione, professor Felice. Grazie a lei per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Come lei che pensa della domanda un po' brutale con cui ho iniziato? La domanda è brutale e io la ringrazio anche perché mi consente di riflettere ulteriormente insieme a lei, insieme a chi ci ascolta, su tale questione. Beh, io non vedrei necessariamente né un passo indietro né un cambio di rotta. Ma lei pensa che io abbia esagerato nel sottolineare alcuni di quei passaggi da Centesimo Sannus? No, non ha assolutamente esagerato, anzi, sono quelli che io normalmente cito proprio per mostrare quanto il pensiero sociale della Chiesa, nella sua forma magisteriale, abbia acquisito determinati concetti che incontrano la cultura del mercato, la cultura della società libera. Quindi non ha assolutamente esagerato, anzi, la Centesimus Annus è piena di questi riferimenti. Lei ha citato il paragrafo 42, che è quello più esplicito, perché Giovanni Paolo II distingue e individua la linea di demarcazione, perché giustamente lei ha letto la parte in cui Giovanni Paolo II esprime in positivo quella forma di capitalismo verso il quale tendere e verso il quale indirizzare i paesi in via di sviluppo e per quei paesi che erano fuoriusciti da poco dai sistemi di socialismo reale. D'altra parte però, dopo qualche riga, immediatamente dopo, Giovanni Paolo II dice: se invece per capitalismo intendiamo un sistema nel quale la libertà economica non è inserita in un sistema più ampio di libertà e se la pratica economica non è inserita in un quadro giuridico certo, allora la risposta è decisamente negativa. Quindi espone anche, possiamo dire, la controparte, che possiamo dire rafforza però la prima. Proprio quegli aspetti negativi danno forza agli aspetti positivi, cioè al ruolo fondamentale e positivo dell'impresa, del libero mercato, della creatività, della responsabilità. Quindi, e questo è un modo per dar forza. E poi si conclude quel paragrafo con una specificazione che secondo me è la chiave di lettura che ci consente di capire anche la posizione di Papa Bergoglio. Sì. Quando dice Papa Giovanni Paolo, dice anche se sarebbe più opportuno non utilizzare la parola capitalismo, bensì quella di economia di mercato, sì, economia di impresa, ovvero economia libera. Sì. Questo modo di intendere è molto interessante perché fa intuire che da parte del Magistero Sociale della Chiesa vi è tutta la sensibilità per comprendere che la parola capitalismo può significare tante cose. Lei mi insegna che non esiste un capitalismo, esistono tanti capitalismi, quante sono gli assetti istituzionali economici, quante sono gli assetti istituzionali politici, quante sono le culture, quante sono le religioni. Quindi per alcuni la parola capitalismo evoca qualcosa di estremamente interessante, l'epopea nordamericana, per altri invece indica la colonizzazione. Per alcuni inizia le grandi imprese monopoliste e senza regole, lo Sherman Act e così via, non c'è dubbio. Esatto, quindi allora dice non ci fermiamo alla parola capitalismo, e a me piace molto, anche perché poi a ben pensare, io tra gli autori che sto studiando di più in quest'ultimo periodo sono quelli i cosiddetti pari dell'economia sociale di mercato. Ed è interessante leggere come Wilhelm Röpke, che nelle sue opere, in modo particolare in Civitas Humana, ma anche nella crisi sociale del nostro tempo, distingua proprio tra capitalismo storico, intendendo per capitalismo storico l'assetto istituzionale, concreto, geograficamente individuabile, dall'economia di concorrenza, che è il modello. L'economia di concorrenza è il modello verso cui tendere le nostre istituzioni economiche. Il capitalismo storico è il modo in cui si è realizzato. Ed è interessante come Luigi Einaudi, che nel 1943 recensisce Röpke, fa propria questa distinzione e dice: il nostro ideale è l'economia di concorrenza e non il capitalismo, che può essere buono, cattivo, crony, corrotto, esatto, e via dicendo. Economia relazionale, come in Italia, è ancora prevalente rispetto, esatto, a quello del giudizio del merito, esatto, e così, esatto, via. Però lei dice questa stessa formula di, sì, Giovanni Paolo II, nel preferire quindi esplicitamente l'economia di mercato, della concorrenza, quella incardinata sulla libertà, la libertà della persona e la libertà dell'imprenditore. Lei dice in realtà non è con questa che entra in contrasto Papa Bergoglio. No, non è, anche perché, allora, io ricordo bene, o meglio, ricordo bene, ero abbastanza giovane, ero abbastanza ragazzo, quindi poi l'ho studiato, ma ricordo come Giovanni Paolo II, appena divenuto Papa, Carlo Votivo, divenuto Papa, nella sua prima enciclica sociale, la Laborem Exercens, sì, del 1981, non fu accolto favorevolmente neppure da quegli ambienti che poi hanno tanto esaltato la centesima. Assolutamente. Ecco. Anche perché Giovanni Paolo II veniva da un ambiente, lei l'ha ricordato prima, che aveva conosciuto la dominazione nazista, quella comunista. Anzi, alla prima enciclica scrissero, i liberal mercatisti, che era ancora troppo impregnato di Leone XIII, della cultura sindacale, dei blocchi e così via. Non l'avevano ben letta, perché saranno proprio quegli elementi antropologici presenti in Rerum Novarum che gli consentiranno di scrivere il 42, il passaggio 42, e di identificare l'economia di mercato con lo spirito di imprenditorialità. E qui però io adesso devo fermare perché abbiamo un minuto di pausa per il traffico, ma tra un minuto torniamo alla questione, perché la devo richiamare a Bergoglio, perché Bergoglio in effetti è diventato, suo malgrado, immagino, non lo so, ma comunque la bandiera militante di chi dice: oh, finalmente torniamo a un Papa che dice no, un momento, la libera impresa, il libero mercato, no, produce troppi effetti negativi. Quindi dobbiamo tentare di entrare nel vivo e spiegare se hanno torto, in che misura hanno torto o perché hanno torto chi la pensa così. Tra un minuto. Pantera Millesimato, l'IRP di Infracom Italia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in questo lunedì di Pasqua, lunedì 28 marzo 2016. Ne abbiamo approfittato dopo terrificanti giorni alle nostre spalle per quello che è avvenuto la scorsa settimana per porci una questione di fondo, approfittando anche del fatto che appunto la Pasqua e il Semana Natale sono le feste comandate religiose che ancora sono sentite un po' nell'Italia laicizzata, e per porci la domanda, ma Bergoglio è, come dicono molti, un papa più ostile al mercato, più vicino al socialismo cristiano, più vicino alla teologia della liberazione dei gesuiti sudamericani, su cui si infiammò il dibattito decenni fa, rispetto a Giovanni Paolo II, le sue encicliche sul mercato e a Benedetto XVI, oppure no? Abbiamo ricordato un po' di passaggi delle encicliche di Giovanni Paolo II, ma è con noi il professor Fabio Felice, che insegna dottrina economica e politica alla Pontificia Università Lateranense, ed eravamo arrivati al punto clou, cioè dice no, secondo me non ha proprio ragione chi pensa che con Bergoglio si fa una svolta tornando a sinistra, per essere chiari, cioè a nutrire un pregiudizio verso l'economia di mercato. Perché? Sì, allora dico subito che Bergoglio ha veramente poco, nulla a che fare con quella tradizione della teologia della liberazione che poi porterà a soluzioni anche a soluzioni, possiamo dire, antimercato. La posizione di Bergoglio era in netta opposizione, nasce da quel contesto latinoamericano, ma non sposerà mai la teologia della liberazione, se non una forma, possiamo dire, ben diversa di teologia del popolo, che non assume le categorie concettuali del marxismo per analizzare la società, e recupera invece la dottrina sociale della Chiesa proprio di Giovanni Paolo II. Ma veniamo però a Bergoglio, a Papa Francesco. Allora, in molti suoi interventi, nelle sue, soprattutto nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, dove affronta la questione economica, Papa Bergoglio non nega la funzione del mercato, anzi dice però che quella funzione del mercato non è sufficiente a parlare di, non è sufficiente a, possiamo dire, a condurci verso uno sviluppo autenticamente umano, e distingue due categorie, la categoria della crescita dalla categoria dello sviluppo. La crescita è fondamentale, necessaria per lo sviluppo, ma non è ancora sufficiente. Accanto alla crescita è necessario di qualcosa che vada oltre la dimensione quantitativa e che sia di tipo qualitativo, quindi rinvia ad una dimensione personale. Io credo che questo sia abbastanza evidente e ovvio, ciascuno di noi sa che pur guadagnando di più non è necessariamente più felice. Diventare più ricchi, la ricchezza non si identifica immediatamente con la felicità, ma dice anche che è necessaria. Ed estendendolo a paesi, come si vede in molti paesi autoritari che magari hanno per finta un reddito pro capite elevatissimo perché dipende dalle rendite del petrolio, dalle commodities, nella realtà quel reddito finisce nelle tasche di una casta ristrettissima di pochi che amministra in maniera autoritaria quelle risorse, e un reddito pro capite finto, perché poi in basso si continua a stare malissimo. Anche in quel caso crescita sì, ma sviluppo no. Ed infatti la seconda parola chiave del Magistero, se prima è la distinzione tra crescita e sviluppo, la seconda parola chiave alla quale volevo appunto rinviare è il termine di inclusione. Cioè Papa Francesco, sin dal primo intervento, ha sempre parlato di un'economia dell'inclusione. Ora, a me il fatto che rinvia all'inclusione fa pensare immediatamente alle istituzioni inclusive. Allora, le istituzioni inclusive sono le istituzioni che consentono la democrazia, ovvero il rule of law, e le istituzioni che consentono la democrazia economica, l'impresa. Cioè tutto ciò che promuove e favorisce l'inclusione dei cittadini, delle persone, e il loro passaggio dalla condizione di sudditi a quelle appunto di cittadini sovrani. E questo non è contro il mercato, anzi il mercato può essere lo strumento privilegiato insieme alla democrazia, così come la democrazia sta alla politica, il mercato sta all'economia, proprio per promuovere la maggiore inclusione. Ma la grande possiamo dire, il grande tema affrontato da Papa Francesco è quello, possiamo dire, dell'anti-idolatria. Cioè Papa Francesco ci impone di fronte al problema dell'idolatria, del denaro e del potere. E questo non ha a che fare né col capitalismo, né col socialismo, né con le altre forme, ha a che fare con la sfera esistenziale di ciascuno di noi. Questi sono i grandi nemici contro i quali Papa Francesco ci invita quotidianamente, esistenzialmente a combattere. Tutto ciò, tutti quegli idoli che ci portano a mettere la, possiamo dire, la prospettiva di Dio, quella che ci invita appunto a vivere secondo gli ideali cristiani, in secondo piano rispetto ad altri idoli, appunto. E gli idoli che si presentano magari anche con quelle vesti ordinarie e quotidiane del successo professionale, del mors tua vita mea, di chi pretende di raccogliere senza aver seminato, e quanto questa realtà la ritroviamo anche nel mondo imprenditoriale, nel mondo della politica, ovvero di chi semina la morte per il proprio tornaconto. Ecco, questo è un problema reale che non riguarda però il sistema economico, capitalistico o corporativistico o socialista. Io ho come un'impressione, vediamo se lei la condivide. Prego. Oppure se la considera un'astrazione del tutto, sì, intellettualistica. Io penso che, siccome nel nostro paese, intendo la tradizione culturale italiana, sì, per via della storia unitaria recente, A, per via del fallimento delle classi liberali che poi hanno fatto l'Italia unita, B, C, per via del regime fascista, D, per via della forza che poi, insomma, il Partito Comunista ha avuto una storia nel nostro paese, per queste quattro cose sommate, che hanno origini, storie, motivi e impatti completamente diversi, alla fine il pensiero, cioè un pensiero veramente condiviso e permanente nell'orizzonte pluralista, per carità, della riflessione italiana, di liberali, di difensori dell'economia di mercato, alla fine è diventata una cosa rachitica. Cioè noi non abbiamo avuto... Ma è una cosa, non ho capito, scusa. Rachitica, cosa? Perché noi non abbiamo avuto Reinhold Niebuhr, non abbiamo avuto personaggi di questo peso, voglio dire. Cioè, per noi l'idea, un padre fondatore degli Stati Uniti, James Madison diceva: senza la virtù dei propri cittadini una repubblica non sopravvive a lungo. Nel nostro paese si è abituati invece a considerare nel dibattito pubblico che chi difende l'economia di mercato, l'individualismo, in realtà difende l'evasione fiscale, i vizi privati, la socializzazione delle perdite e così via. Ecco, questa è la differenza di fondo, per cui secondo me in Italia va per la maggiore il sospiro di sollievo. Abbiamo in Bergoglio finalmente uno che torna a non essere amico di chi vuole il libero mercato. Pesa questo fatto un po' italiano che negli Stati Uniti non c'è, oppure no? Pesa tantissimo, perché la riflessione, diciamo, possiamo dire la riflessione più diffusa, quella più anche più nota, è quella che da più tempo è presente sul magistero sociale della Chiesa, è di matrice italiana, è inevitabile questo, accanto a quella tedesca, belga, francese, ma quella italiana ha sicuramente un grande peso. E i quattro punti che lei ha indicato sono interessantissimi, io li condivido pienamente, erano i quattro punti che sollevava Luigi Sturzo. Esattamente questo. Cioè, il dramma della libertà in Italia erano esattamente quei quattro sono punti. Sono stati i fallimenti dei suoi pochi sostenitori al momento dell'Italia unita. I fallimenti, io parlo di fallimenti, non parlo di virtù non riconosciute. Fallimenti, certo. Io devo dire che richiameremo di sicuro ai microfoni Flavio Felice, perché sta uscendo un suo libro su un tema di devastante attualità, perché è dedicato, leggo il titolo, La Sharia e il denaro, un confronto tra finanza islamica ed economia sociale di mercato. E di questo libro bisognerà che ne riparliamo, perché credo che abbia la sua importanza in aiutarci a capire quello che avviene nel mondo. Quindi grazie intanto e buona Pasquetta al professor Flavio Felice. Continuate su Radio 24, noi ci risentiamo domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milan e me ad Attenti a Noi Due. Buona Pasquetta.